l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale per andare a conoscere un po' meglio questa Europa, respirarla, insomma frequentarla, contaminarci anche con notizie che vadano al di là della stretta attualità politica ed economica che viene seguita giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo davvero di offrire anche altre sfumature, altri punti di vista, notizie che magari sfuggono e andiamo a ripescarle, cerchiamo di approfondirle con il nostro stile. Le coordinate per seguirci via sms 349-238-6666 oppure sulle nostre pagine in Facebook che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti toccati o su Twitter @ Federico Taddia. Ok, tutto pronto? Si parte come sempre un viaggio. Oggi la prima tappa è l'Olanda. The citizens of the 27 EU member states should feel at home no matter where they decide to move. The PVV's website runs totally counter to these principles. It is openly calling for people to be intolerant. Europe is facing difficult times. Quella che state ascoltando è una ferma condanna che arriva dal portavoce della Commissione europea nei confronti del sito internet del partito olandese PVV, partito di estrema destra che all'interno del suo sito ha aperto uno spazio dove i cittadini possono lamentarsi, possono denunciare gli immigrati dell'est, quindi una forte forma di xenofobia che è stata fortemente condannata e si è scatenata un'accesa polemica non solo all'interno della comunità olandese ma appunto all'interno di tutta l'Unione. Per avere una fotografia di quello che è successo e soprattutto di quelle che sono state anche le ricadute dal punto di vista politico ma anche nella popolazione, abbiamo invitato un giornalista olandese corrispondente di NRC, che è uno dei giornali più grandi in Olanda, e di NOS, la radio pubblica olandese. Diamo il benvenuto a Bas Mesters. Ciao Bas, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Ma dove vivi? Abito a Roma, vicino a Roma, Grotta Ferrata. Ah, ok. Come sta un olandese a Roma? Si trova bene? Sì, soprattutto a giorni soleggiati come questi, perché in Olanda ancora la gente deve aspettare per un paio di mesi di vedere il sole, come si vede il sole qua. Ok. Durante la nevicata eri uno dei pochi che sorrideva, o che comunque magari era abituato anche a quel clima? Sì, abbiamo giocato nel giardino con i bambini, sfidato, quello che facciamo in Olanda. Perfetto. Allora Bas, raccontaci un po', cos'è successo in Olanda in queste settimane? Come mai che si è scatenata questa caccia all'immigrato dell'est e ci sono state ricadute politiche? Ma forse prima l'idea di spiegare un attimino chi è Geert Wilders. Certo. Geert Wilders è un politico di destra, prima era del Partito Liberale, poi ha costituito il suo partito. Lui è l'unico membro, presidente e capo partito del PVV, il Partito della Libertà. E adesso ha 24 seggi nel Parlamento, 15%, e appoggia il nostro governo dall'esterno. È un governo di minoranza che può sopravvivere grazie a lui, quindi lui ha molto potere nella politica olandese. E tre settimane fa lui ha lanciato questo sito per denunciare inquinamento, disturbi e perdita di lavoro a causa di persone venute dall'Europa orientale, Europa dell'Est, sì. Tipo polacchi, rumeni, bulgari. E da lì ovviamente è cominciato la contesta di tutti i politici, tanti politici, ma non del nostro premier Mark Rutte, perché lui è molto dipendente di Wilders. Quindi Rutte ha detto che questa è una causa di partito, è una cosa di Wilders, e io non commento questa cosa. Quindi ha preso le distanze per motivi di maggioranza, diciamo. Esatto. E adesso sta sotto molta pressione perché, come hai detto tu, il Parlamento europeo, la Commissione europea vogliono che lui prenda le distanze. L'hanno anche invitato a venire a Bruxelles nel Parlamento il 13 marzo per spiegare la situazione. Poi ci sono stati 10 ambasciatori dell'Est che hanno mandato una lettera di protesta al governo olandese chiedono che Olanda di nuovo si mostra tollerante come è conosciuto nel mondo. Certo. Questo è un po' il quadro. Ecco, ma al di là della presa di posizione di questo leader politico, tra l'altro amico di Borghezio, insomma, quindi esatto, è probabilmente un atteggiamento simile, ha intercettato un umore della popolazione o è stata comunque una provocazione personale, una provocazione che appunto voleva forse alzare i toni della discussione politica? Ma hai ragione, lui è un amico di Borghezio e lui fa la stessa politica, quindi utilizzare la paura per gli immigrati, la frustrazione contro la immigrazione per guadagnare seggi. E fino ad adesso Wilders ha sempre utilizzato i marocchini e i musulmani. Forse ti ricordi, lui ha fatto questo film Fitna, sì, certo, nella quale c'erano citazioni del Corano e immagini dell'attacco sulle Torre Gemelle per creare più sostegno. E adesso, forse perché non vanno più di moda i marocchini e i musulmani, ha scelto gli europei dell'est che sono arrivati in Olanda solo da 4-5 anni come nuovo scopo di guadagnare nuovi elettori. E questo è un po' il concetto. Grazie davvero Bas per averci fatto una fotografia della situazione. Ci ritroveremo sicuramente qui in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao e buon sabato. Arrivederci, ciao. Ότι μέσα από αυτή την εξηγία οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους δεν θα έχουν θέση στην επιχείρηση στο μέλλον. Το χρέος της προς τους πάσης χρήσεως πιστωτές με ή χωρίς εγγυήσεις ανέρχεται περίπου σε 60 εκατομμύρια. Ritmi, suoni, voci dalla Grecia in crisi che tante volte abbiamo visitato qui dall'Alta Europa cercando di capire quelle che sono anche altre ripercussioni al di là della difficile quotidianità che in Grecia appunto accompagna i cittadini. La storia di oggi è una storia particolare che coinvolge anche in prima persona direttamente chi si occupa di informazione. È la storia di un quotidiano in crisi, di un quotidiano che però ha dimostrato che la voglia di sapere a volte è più forte della crisi. Un quotidiano autogestito che è tornato in edicola riscuotendo grandissimo successo, una bella storia e la vogliamo conoscere meglio insieme a Dimitri Degli Olanes, collaboratore in Italia della televisione ellenica e amico dell'Altra Europa. Ciao Dimitri, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Buongiorno. Una storia bella di questo quotidiano, lascio pronunciare a te il nome perché io sicuramente mi incarterei. Eleftherotypia. Perfetto, che significa? Libertà di stampa. Ah ok, quindi insomma diretto. Raccontaci un po' la storia di questo quotidiano. Beh, è un giornale importante perché è il giornale senza padroni ed era un giornale della sinistra illuminata e riformista, spesso della sinistra tout court, perché qualche volta comparivano anche dei pezzi molto ideologici, perfino comunicati per le intenzioni terroristiche. Però ecco, era una tribuna aperta, importante e sincera delle tensioni che covavano nella parte più attiva e più interessante della società greca. Sì. Ha smesso le pubblicazioni il 22 dicembre, prima di Natale. Ecco. E poi cosa è successo? Sì, per mancanza di fondi? Sì, a causa della crisi che sta colpendo duramente tutti gli organi di informazione, però ha colpito in particolar modo l'Eleftherotypia perché si è trovata a un certo punto, avendo assunto un atteggiamento molto critico verso la maniera in cui il governo Papandreou gestiva la crisi, si è ritrovata senza avere l'appoggio delle banche per poter sopravvivere. Addirittura un accordo già sottoscritto in prima istanza poi è stato per 8 milioni di euro, quindi anche una cifra spaventosa, è stato in un secondo tempo poi disatteso da parte della banca perché dice all'elettore di prima denuncia su pressioni politiche. Certo. Però cioè, insomma, ci sono stati anche dei rapporti complicati, nel senso che i giornalisti di fatto hanno scioperato contro loro stessi. Com'è stata la dinamica? Perché ecco, questa sì è stata una cosa un po' drammatica. Questi ecco, sono i limiti proprio della sinistra greca, che spesso viene trascinata da dogmatismi ideologici, non capisce le situazioni. Sì, c'era un comitato di redazione dominato dalla sinistra, indubbiamente, il quale di fronte all'annuncio dell'editrice che appunto questo prestito di 8 milioni non l'aveva più ottenuto, quindi la banca aveva fatto marcia indietro, non ha pensato a nessun altro tipo di sostegno al giornale, di forma di lotta, di mobilitazione anche dei lettori al limite, ma se non una serie di scioperi che colpivano proprio là dove duoleva al giornale, cioè tra sabato e domenica, perché considerato che il giornale domenicale vendeva tre volte più del giornale quotidiano, per cui è stato proprio il colpo finale dovuto alla cecità sindacale, alla cecità politica. Erano molto contestati, mi raccontavano i colleghi che lavoravano lì, che le assemblee erano veramente infuocate, però alla fine è prevalsa questo atteggiamento, apro le virgolette, di lotta, chiudo le virgolette, che insomma alla fine purtroppo ha dato il colpo di grazia al giornale. Certo. Ecco, Dimitris, ma Dimitri, al di là della vicenda di questo quotidiano, com'è il rapporto tra crisi ed informazione? Nel senso, i cittadini hanno voglia di informarsi, hanno voglia di sapere, o nella rassegnazione, che è un po' l'umore forse più diffuso in Grecia in questi mesi, si è anche abbandonato il desiderio di conoscere? No, il popolo greco è un popolo estremamente politicizzato e vuole essere informato. Il problema è che cosa gli viene offerto sotto l'etichetta dell'informazione, e questo è veramente un vero dramma, a cui si aggiunge il non meno importante dramma appunto della chiusura dell'eterotipia. Il problema vero è che il cittadino greco non è informato. Come succede in tutti i paesi europei, la stragrande maggioranza della popolazione viene informata dalla televisione. E purtroppo in Grecia viene informato dai cosiddetti notiziari dei canali privati, che sono in mano a personaggi che hanno tutto l'interesse a disinformare, perché loro fanno affari con lo Stato. C'è un intreccio tra informazione dei canali privati e partiti di governo, per cui gli uni offrono consenso, vendono consenso, e gli altri vendono appalti privati e forniture per lo Stato. Questo è l'intreccio. Per cui il cittadino greco non sa che cosa è successo, non sa, e specialmente quello che non sa sono le responsabilità politiche sue, sue, cioè del cittadino. Quello nessuno gliel'ha detto, che c'è scegliendo personaggi che si basavano sulla clientela, politici, dico, sulla clientela, sulla corruzione, ha contribuito anche lui col suo voto a portare il paese al disastro. Vengono invece proiettate storie assolutamente inesistenti, tipo il fatto che ci sarebbe in Europa un nuovo movimento di filialenismo come quello che c'era all'inizio dell'Ottocento, quando c'era la rivoluzione contro gli ottomani. Cose stupide che però vengono ripetute in continuazione e poi creano un clima, oppure teorie di complotti, oppure i cattivi tedeschi che sono sempre un po' nazisti e cose di questo genere. Non c'è una riflessione seria, non c'è un'attribuzione seria di responsabilità, una problematica su come si andrà avanti, no, domina il populismo, i facili cliché. Si cavalca l'emotività, insomma, si manipola esatto. Quella che è un po' la... Esatto. Questo è il giornalismo greco, purtroppo, a cui l'eterotipia dava un... insomma, fungeva da importante argine. Dimitri, grazie davvero per il tuo contributo, in bocca al lupo per il tuo lavoro, e ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa nelle prossime grazie settimane. Grazie a te. Ciao, grazie, buon sabato. Agli ascoltatori. Noi adesso un Europosit, poi però state lì perché torniamo in Grecia con un'altra storia. Europosit. Fotografa l'Europa e vinci un tablet. Ecco un concorso per fotografi non necessariamente professionisti. Mostrate a tutti come l'Unione Europea influenza la vostra vita e tentate di vincere un tablet e di vedere la vostra fotografia sul poster della presidenza danese dell'Unione Europea. Per partecipare è sufficiente essere cittadini europei e caricare quante immagini desiderate sul sito dedicato. Scrivete un breve commento per ciascuna foto e spargete la voce. I tablet in palio sono 4, per la foto più votata dagli utenti, la foto più creativa, quella più divertente e quella con il commento più calzante. Non è necessario usare una macchina fotografica professionale, anche uno smartphone è sufficiente. Per ulteriori informazioni visitate il sito snapshots.eu2012.dk. Λεφτά υπάρχουν, υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν. Quello che ha ascoltato, un po' remixato, è Papandreou in bicicletta che continua a ripetere: ci sono i soldi. È un po' di satira che abbiamo trovato navigando in rete, perché torniamo in Grecia da Alessandro Carbone. Ciao Alessandro, buongiorno. Ciao Federico, buongiorno a voi. Ciao. Cosa ci fai tu in Grecia? Vivo e lavoro in Grecia. Lavoro facendo consulente sui finanziamenti che l'Europa dà alle nazioni europee e non solo. Ho colto al volo l'invito che mi ha fatto Alessandro di intervenire in trasmissione, cioè ha contattati attraverso la nostra email altraeuropa@radio24.it e proprio ha detto: guarda, ascolto spesso la puntata, io mi occupo di finanziamenti europei, di ricerca, di capire come ottenere questi fondi di cui tanto si parla, e mi piacerebbe dare un contributo. Tra l'altro vivo in Grecia, e quindi la cosa mi ha stuzzicato l'interesse per entrambi gli aspetti. Ma anche lì, dalla Grecia, tu ti occupi di raccolta di fondi? Perché di fondi. Sono un po' i due estremi della nazione che probabilmente è più in crisi all'interno dell'Europa e i fondi europei, che sono una immensa risorsa, e noi per esempio italiani siamo maestri nel non sfruttare questa opportunità. Mi chiedevo appunto se tra queste due estremità c'eri tu, nel senso come trasformare un'opportunità in un qualcosa che sia davvero vantaggioso. Sì, anzitutto ti dico questa cosa: l'Europa mette a disposizione dei fondi, lo fa almeno in due grosse modalità, attraverso dei fondi che vengono chiamati centralizzati perché sono gestiti direttamente da Bruxelles, e un altro grosso blocco di fondi che distribuisce ai diversi paesi, stati membri e non, perché li utilizzino in rispetto certamente delle politiche europee, ma anche rispetto dei bisogni più locali, più territoriali. E per fare tutto ciò bisogna avere anche delle competenze, delle conoscenze, insomma. E allora io, che nel tempo mi sono un po' specializzato su questo, aiuto enti pubblici, privati a intuire dove sono i fondi, su quali temi, e anche poi a fare quel lavoro un po' di manovalanza per compilare documenti piuttosto che formulari per chiedere questi fondi alle agenzie competenti. Perfetto. È facile fare richiesta di questi fondi alla fine, perché sembra un po' complicato, comunque si entra in un ginepraio burocratico. Questo è uno degli ostacoli reali, o è solo una scusa perché non siamo abbastanza formati, non siamo abbastanza competenti, non conosciamo la lingua, quindi non abbiamo voglia di capire come affrontare tutta quella che è la burocrazia? Guarda, credo che la burocrazia, quella la si impara, si diventa esperti dopo aver fatto un paio di tentative e iniziative. Credo che una difficoltà che io un po' percepisco nel mio lavoro è duplice, e allora l'accenno perché possiamo anche menzionare i temi legati alla crisi, soprattutto anche alla crisi greca. La prima cosa è che questi finanziamenti vengono dati sostanzialmente non per gestire delle cose di ordinaria amministrazione, ma l'Europa offre questi finanziamenti per innovare, per testare, per creare delle cose nuove che soprattutto mettano in pratica le politiche europee. Allora, questo è un mito che un po' bisogna anche patare, perché uno dice, ah, vado a prendere i finanzi europei e mi finanzio, che ne so, un corso di formazione che già da una vita che sto facendo, piuttosto che finanzio delle cose che ordinariamente uno Stato dovrebbe mettere in pratica. No, questo non è il caso, ecco, e quindi credo che questa sia un po' una prima difficoltà e comunque un passaggio di cultura mentale che tutti dovrebbero fare. E la seconda difficoltà, e qui cito la Grecia, potrebbe essere anche valido questo ragionamento per altre nazioni, è che tutti questi finanziamenti vengono elargiti alla comunità europea, ma anche a una condizione, che lo Stato membro che li riceve e che li vuole utilizzare, piuttosto che il gruppo di organizzazioni che li vuole gestire, devono metterci un cofinanziamento, cioè ci devono mettere una parte anche economica di proprio. Ora, nel caso della Grecia, la mia esperienza è questa, che la Grecia, essendo in un momento di crisi, non ha quella liquidità da aggiungere a quei soldi europei che sono disponibili. Per cui ti faccio un esempio: fondi strutturali, cioè quei fondi che l'Europa dà alle nazioni per realizzare anche cose su bisogni locali, la Grecia ne ha utilizzati negli ultimi 6 anni solo il 20% di quello che era realmente disponibile, perché non ha la quota di cofinanziamento da mettere per poter liberare quelli messi a disposizione da Bruxelles. Quindi credo che sia una difficoltà che va dal di là dell'aspetto burocratico. Io conosco un sacco di gente che sa fare bene i progettisti e sa far bene la parte burocratica. Il problema è, le idee devono essere nuove, realizzare politiche europee, ma allo stesso tempo gli enti devono poter mettere dei finanziamenti accanto a quelli che l'Europa mette a disposizione, se no i soldi non si liberano. Alessandro, ti faccio una proposta: sicuramente tra i nostri ascoltatori c'è chi magari ha qualche domanda, chi è interessato, al di là degli enti pubblici, starei più sugli enti privati, ma anche quelle che sono le associazioni, quelle che lavorano anche nel terzo settore. Se magari qualcuno, insomma, avesse domande specifiche, ma anche un caso concreto, vi invito a scriverci, perché magari poi, Alessandro, ne parliamo in diretta in una delle prossime puntate, proprio per capire concretamente quelli che sono gli step, i passi, i passaggi da fare per avvicinarsi a questi fondi e come anche appunto ottimizzare quella che è la richiesta, per non perdere tempo e per non perdere opportunità. Cioè, ci stai? Possiamo contare su di te? Più che volentieri, Federica, più che volentieri. E in Grecia esci per strada e cosa respiri in questi giorni? Qual è? Aria pesante, nel senso, credo la Grecia ha un tempo meteorologico bellissimo, almeno dove abito io, nella zona di Atene, ma dal punto di vista dei sentimenti delle persone, dei contenuti delle loro conversazioni, l'aria è abbastanza pesante. Credo che anche e soprattutto dopo quel che è successo negli ultimi giorni, cioè sì, la promessa di un nuovo finanziamento, però a fronte di ulteriori tagli, credo che la gente non abbia più la prospettiva di vedere che c'è un'uscita dal tunnel, quindi è come se ai greci fosse stato tolto la possibilità di immaginare un futuro. E noi continuiamo invece a crederci in questo futuro e quindi torneremo comunque a parlare di Grecia. Ciao Alessandro, grazie, buon sabato. Ciao, grazie a voi Federico e a tutti gli ascoltatori. I don't have an answer for this. This is a very, very complicated question. But I do think that often we forget that there are many moral issues. There is not only a crisis, economical crisis, but there is also a spiritual crisis, a crisis that goes much deeper than only the economics. And I think that if we start working on that, if we as a society start talking, especially Western society, what are the new values that we are going to be living by, because until now it was, of course, only consumerism and capitalism and gaining more money and spending more money, but I think that we have to start questioning that. Quella che state ascoltando è la risposta di una giovane imprenditrice croata alla domanda: cosa serve per uscire dalla crisi? E l'abbiamo estrapolato dal sito di Horizon 2020 e questo programma fondamentale che anche il Focus ha scelto questa settimana da Euronet, il nostro portale, il nostro network paneuropeo, e tante voci diverse per affrontare argomenti comuni. Questa settimana appunto si parla di questo programma che metterà a disposizione di tutti gli stati membri 80 miliardi di euro suddivisi nei molteplici programmi di investimento in materia di ricerca. La parola chiave è proprio questa, la ricerca. Lo stesso ministro Profumo, il ministro italiano, ha detto che appunto l'Italia risulta essere indietro in fatto di presentazione di progetti vincenti in Europa. Ne abbiamo parlato anche pochi minuti fa, e qui siamo a un piano, a un livello superiore, però il problema è sempre quello: i soldi ci sono, bisogna trovare il modo per ottenerli, per riceverli, facendo e proponendo proposte innovative. In questo caso si parla di ricerca, e per entrare nello specifico abbiamo invitato e Valentina Bosetti, che lavora alla Fondazione Eni Enrico Mattei, e lavora proprio a un progetto finanziato, se ho ben capito, da Horizon, o comunque da un programma parallelo, per capire quanto questi finanziamenti poi abbiano ricadute concrete nel mondo della ricerca. Ciao Valentina, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Forse ho sbagliato la gerenza o la presentazione, ti vuoi autopresentare? Sì, dunque io sono, come hai detto giustamente, Valentina Bosetti, sono l'investigatore principale di un progetto che è sponsorizzato dal Consiglio Europeo della Ricerca, che è, diciamo, dentro l'ombrello Horizon 2020 inizierà comunque dentro l'ombrello del programma quadro della Commissione Europea per finanziare la ricerca in Europa. La specificità del Consiglio Europeo della Ricerca è quella di finanziare individui anziché consorzi, e non è un cofinanziamento, ma è un finanziamento al 100%, quindi abbiamo parlato prima di cofinanziamenti, in questo caso il finanziamento è per intero. Sì. E la cosa interessante e innovativa è che il Consiglio Europeo della Ricerca finanzia individui in modo sostanzioso, e gli individui poi possono costruire il loro team, possono spostarsi, se lo ritengono opportuno per la loro ricerca, in Europa, e in particolare uno degli obiettivi è quello di finanziare anche ricercatori giovani, dando loro una somma che li rende indipendenti da eventuali baroni, baronie o diciamo anche idee di ricerca dei loro superiori. E l'idea è quella di finanziare e di promuovere innovazione più rischiosa, che è stata pensata meno in campi che sono meno mainstream. Apparentemente soprattutto l'obiettivo dell'indipendenza, cioè di rendere indipendenti i ricercatori, di fare scegliere come spendere il loro budget, eccetera eccetera, sta funzionando molto. Mm-hmm. Ecco, e tu di fatto ti occupi di capire, vi occupate di capire con la vostra ricerca se il rapporto tra finanziamento e ricerca, cioè là dove ci sono i benefici o dove ci sono anche magari dispersioni di energie o di risorse, quali sono i risultati? Nel senso, esiste una fotografia, è possibile fare una sintesi? Sì, noi allora nel progetto di ricerca che di cui mi occupo io studia come funziona l'innovazione, quindi come funziona, come reagisce il processo innovativo anche a finanziamento della ricerca, ma anche ad altre cause o motori. Sì. In particolare noi ci occupiamo di capire come funziona la ricerca nel campo energetico, e quindi come si fa a promuovere quelle tecnologie che ci possono o ci potranno rendere indipendenti dai combustibili fossili. Ma quello che vediamo, e la prima domanda che ci facciamo, è diversa l'innovazione nel campo energetico dall'innovazione in generale, quindi studiamo anche l'innovazione in generale. E secondo me tra i risultati più interessanti quello che vediamo è che ovviamente gli investimenti in ricerca e sviluppo sono essenziali per promuovere l'innovazione, ma anche la spesa in educazione. Anche il passato è importante, cioè noi ci ergiamo sulle spalle dei giganti, quindi se per un periodo non è stato fatto investimento in ricerca e sviluppo, il sistema non si muove immediatamente, bisogna costruire uno stock di conoscenza, e soprattutto bisogna assorbire anche la conoscenza che viene costruita all'estero. Certo. E la cosa interessante che stiamo studiando proprio adesso è che uno dei canali per assorbire questa conoscenza che sta all'estero è importare persone da fuori. Quindi l'immigrazione, la diversità culturale di un paese è una delle componenti della riuscita di quel paese nell'innovazione, al contrario di quanto spesso si pensa o di come spesso viene discusso. Quindi l'immigrazione, la presenza di immigrati che siano nella forza lavoro skilled, cioè scienziati, ingegneri, eccetera, eccetera, è un elemento essenziale, così come altre diversità tra cui quella di genere. Certo, e, insomma, la contaminazione come assolutamente come valore aggiunto. E Valentina, un'ultima domanda. Certo. Là dove c'è ricerca c'è innovazione e soprattutto là dove c'è innovazione c'è occupazione? Avete studiato questa correlazione? Beh, questo è molto interessante anche e soprattutto perché la comunità europea sta spingendo molto sull'innovazione nel settore green, cioè sì, energie pulite, proprio con l'idea che diciamo sia un settore dove l'occupazione possa essere fondamentale, e questo ovviamente viene fuori da quasi tutte le ricerche, cioè garantire quando un paese diventa il primo a scoprire una certa tecnologia, vediamo il caso della Germania con il solare e l'eolico soprattutto, poi dopo produce quella tecnologia e la esporta all'estero, e quindi ovviamente questa è una componente importante per creare occupazione a casa, certo, domestica. Valentina, grazie davvero. Vuoi darci un sito di riferimento per conoscere meglio il vostro lavoro? Sì, il sito della FEM, si trovano tutti i progetti che seguiamo, che è feem.it. Perfetto, lo linkeremo subito nelle nostre pagine in Facebook. Grazie davvero e buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie, buona giornata. As I grew older, I had to roam, far from my family and far from my home, into the city where lives can be spent, lost in the shadows of tar and cement, into the city where I had my eye on all the pleasures that money can buy, and every night I'd see it alone and love what loneliness meant. Silvio, hai apprezzato questa Celentani versione inglese per introdurti? Do il benvenuto a Silvio Paladino, siamo a Londra, 31 anni, fotografo e videomaker di Prato, e vive nella capitale inglese. Di cosa ti occupi, Silvio, lì a Londra? Sì, lavoro come artista, fotografo e videomaker, seguo piuttosto la scena culturale, quindi mi occupo di documentazione di arte, teatro e musica. Che bello, cioè, già il fatto che si possa vivere di questo a Londra credo che sia proprio una boccata d'ossigeno bellissima. E, Silvio, ti abbiamo convocato per capire con te cos'è questa nuova tendenza londinese dell'urban farming, nel senso, c'è un'esplosione verde all'interno della città? Sì, diciamo che negli ultimi anni si è sviluppato un interesse forte verso coltivare verdure, ma non solo, all'interno di un contesto urbano. Ci sono diverse iniziative, gruppi di sperimentazione e singoli individui che si avvicinano a questo approccio. Insomma. Mm-hmm. Ma è qualcosa che va al di là dell'avere che ne so, la piantina di fragole sul terrazzino, cioè ci sono zone dedicate e destinate alla coltivazione degli ortaggi? Sì, ci sono diverse iniziative molto diverse e molte puntano molto sull'aspetto anche sociale di queste iniziative, perché tendono a rafforzare anche quelle che sono comunità locali, quindi persone si avvicinano alla coltivazione, ma attraverso questo anche rafforzano collegamenti umani. Quindi non è solo coltivazione, ma a parte rete sociale, questi prodotti vengono anche venduti? Di solito vengono divisi tra chi ci lavora o vengono offerti gratuitamente molto spesso. Mm-hmm. Ma tu hai toccato con mano qualcuna di queste esperienze, ce la puoi raccontare? Sì, per esempio sul tetto dell'edificio dove ho il mio studio abbiamo delle vasiere praticamente, dove coltiviamo un po' di tutto, verdure, fiori, frutta, erbe di tutti i tipi. È un tetto che è stato riconvertito a orto urbano. Abbiamo pannelli solari che sostengono il bisogno energetico dell'edificio e poi insieme condividiamo questi spazi che sono praticamente sono dei pallet sui quali vengono posate queste borse di terra e poi organizziamo laboratori anche con la comunità locale dove facciamo vedere anche a scuole bambini che vengono a visitare lo spazio come crescono le piante, perché questo è qualcosa che all'interno di una situazione urbana come Londra è difficile, insomma, per molte persone. Ecco, ma tutto questo fammi capire, cioè è strutturato anche in maniera organizzativa, nel senso comunque c'è anche un'associazione o è proprio una rete informale di persone che decidono di fare insieme la stessa cosa? Ci sono gruppi di persone, associazioni che sono interessate in questo tipo di attività e loro poi svolgono un'attività di educazione, ma quello che è interessante è che sono individui di provenienza molto varia che si interessano a questo. I bisogni e diciamo le motivazioni sono molto varie. Ci sono motivazioni personali, quindi il bisogno personale di riavvicinarsi un po' alla terra, di persone che magari non hanno un giardino dietro casa o vivono al 13° piano in un appartamento e quindi non hanno fisicamente accesso alla terra. Ci sono motivazioni che si rifanno alla sostenibilità ambientale. Quindi le persone sentono la necessità di capire da dove viene il cibo che mangiano e di seguire anche un po' il processo produttivo. E qui si rifanno anche a sistemi di permacoltura e coltivazione biologica. Sicuramente ci sono delle motivazioni economiche. Il prezzo del cibo nei supermercati è tale e quindi fa comodo anche avere delle verdure molto vicino a casa, che sono più fresche e più economiche sicuramente. Certo, ho visto anche che c'è insomma evoluzioni di quello che in Italia è conosciuto come guerrilla gardening, no? Quindi l'occupazione abusiva tra virgolette di spazi pubblici che vengono curati dal punto di vista del giardinaggio, e invece lì l'evoluzione sta nel fatto che alcune di queste oasi, di queste aree verde vengono proprio utilizzate per coltivare anche frutta e verdura. Sì, e questo di nuovo si ritorna a motivazioni sociali, ma anche politiche, perché questi gruppi sostengono l'importanza di riappropriarsi di spazi pubblici e spazi che non sono utilizzati, ma che possono essere utilizzati appunto per scopi produttivi e anche come collante sociale. Ci sono gruppi di persone, per esempio, che stanno coltivando spazi verdi all'interno di zone di edilizia popolare che sono state abbandonate, e loro sfruttano questi spazi che altrimenti sarebbero vuoti in disuso. Certo. Per rafforzare anche appunto la qualità sociale dell'area. Certo. Silvio, in chiusura, so che ti stai occupando di un evento particolare, ce lo vuoi raccontare in pochi secondi? Sì, sto organizzando una serie di eventi dove invito artisti e persone di background diverso a presentare la loro filosofia nel riguardo del cibo e del cucinare. Quindi sono persone che hanno tutta una loro ideologia rispetto al modo in cui loro trovano gli ingredienti o li cucinano o li presentano. Mm-hmm. E quindi li inviterò a cucinare a casa mia e presentare questi loro concetti. Ecco, ma per esempio, ci puoi fare un esempio concreto per capire il prossimo ospite, per esempio, chi sarà? Il primo molto probabilmente sarà un gruppo, un collettivo che si chiama The Gas Club, e loro sostengono che nelle nostre interiore abbiamo un secondo cervello. Ho capito, insomma, questo mi basta, hai dato un'ottima visione di quello che potrebbe accadere durante questo incontro. Diamo il sito di Silvio, che è www.silviopaladino.eu. Ciao Silvio, buona coltivazione, quindi insomma divertitevi lì sul vostro orto, sul vostro tetto. Ciao e buon sabato anche a te. Un grazie a voi che siete stati in nostra compagnia, un grazie a tutta la squadra, Margherita Ina e Viola Frifa che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca oggi in assistenza, Roberto Scaltritti alla parte tecnica, Alessandra De Luca che ha dato voce ai nostri post-it che potete ritrovare sul nostro sito radio24.it oppure sulle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa. Dall'altra parte del vetro c'è già il gastronauta che sarà qui in onda in diretta subito dopo il GR. Ancora ciao da Federico Taddia.